Sono tutti come te che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Buonasera a tutti e a tutti, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Di te è un vero uomo, ti insegnerò a sparare, ti insegnerò. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, il sito per ascoltarci in streaming, per riascoltare le corrispondenze e anche per vedere le iniziative a Roma e fuori Roma. In particolare vi ricordiamo che è possibile prenotare i pullman per la manifestazione di sabato prossimo in Val di Susa. Per prenotare i pullman trovate tutti i riferimenti sul sito della radio, sul sito del Forte Prenestino. Vi ricordiamo che i pullman partono venerdì 7 alle 23 dal Piazzale del Verano e poi rientreranno a Roma la domenica mattina intorno alle 5, si riparte dalla Val di Susa direttamente sabato sera. È importante partecipare in tante e tanti, e vi ricordiamo quindi il sito della radio e il sito del Forte Prenestino, www.forteprenestino.net, per le prenotazioni. Per questo spazio radiofonico invece vi ricordiamo innanzitutto il numero di telefono se volete parlare con noi, è lo 06 49 17 50, il numero di Radio Onda Rossa, e ora di buco @ondarossa.info la nostra mail per scriverci, vi invitiamo tutte e tutti a farlo. Ora di buco.noblogs.org, il blog su cui potete riascoltare le vecchie trasmissioni, vedere foto, leggere articoli e insomma tutto quello che riguarda questa trasmissione. Entriamo subito nel vivo di questa trasmissione, perché gli argomenti come al solito sono tanti, anche se questa settimana non abbiamo cortei di cui, di cui parlare. Sono state varie insomma le puntate, subito prima o subito dopo un corteo, fortunatamente una buona mobilitazione soprattutto degli studenti e delle studentesse, ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola ci hanno mobilitato in questo periodo. C'è chi parla di vittoria, c'è chi parla di, diciamo, con un po' più di calma, insomma, nel senso che sì, la vittoria io credo personalmente che sia stata quella di riportare una mobilitazione autogestita e costruita dal basso nelle scuole. Se possiamo chiamarla vittoria, chiamiamola vittoria, ma sicuramente è un dato positivo, visto che veniamo da anni e anni di mobilitazioni piuttosto scarse nel nostro settore. Poi certo è stata bloccata l'aumento di ore di lezione a parità di stipendio, è stata bloccata per ora la legge ex Aprea, ma prima di parlare di vittorie forse c'è ancora da costruire molto altro. non so se su questo qualcuno vuole aggiungere, se no entriamo subito nel vivo della trasmissione. Oggi siamo una voce in più dietro questi microfoni perché vogliamo parlare in particolare di precariato nella scuola e di precariato dei docenti e delle docenti, di precariato del personale ATA, che è il personale tecnico amministrativo, cioè chi lavora nella scuola ma non insegna, nella scuola non ci lavorano solo insegnanti, e in particolare vogliamo parlare del concorso a cui sono sottoposti i precari e le precarie che fanno gli insegnanti, insomma, nella scuola, concorso che adesso, insomma, sono chiuse le iscrizioni e ci stiamo avviando verso, insomma, il suo, diciamo, espletamento, visto che le date previste sono ormai molto vicine, insomma, il 17 e il 18 di dicembre per quanto riguarda le prove. E quindi io comincerei subito a parlare di questo, visto che ci sono anche mobilitazioni in vista, organizzate dal coordinamento precari della scuola e dal coordinamento scuole di Roma, ma soprattutto, insomma, vorremmo un po' andare a approfondire, anche se appunto c'è una vecchia trasmissione sempre dell'ora di buco che potete riascoltare su questo concorso, ma diciamo l'argomento è molto ampio e rientra in un capitolo assai più grande, che è quello che riguarda le condizioni del lavoro in questo paese, insomma, se la vogliamo prendere un po' più larga. E tutti si guardano, nessuno prende il microfono, guardiamo se qualcuno lo fa. Beh, intanto bisogna dire che io non ho l'aggiornamento esatto della cifra dei partecipanti, coloro che hanno fatto domanda per il concorso, ma mi sembra che siano intorno alle 200.000, molti di più. Prendi il microfono, se è l'unico che c'è là. Io ero rimasta forse a una prima funziona, quanti questo? Sono? Sì, dunque mi presento, sono Carlo Seravalli, ho già partecipato a questa trasmissione, sono un insegnante precario e partecipo, insomma, sono attivo nel coordinamento dei precari scuola e nel coordinamento delle scuole di Roma. E dunque attualmente la cifra degli iscritti al concorso è di 320.000 domande che sono state fatte. Questa cifra potrebbe anche, insomma, aumentare, in quanto molti ricorrenti stanno vincendo dei ricorsi per poter accedere. Ricordiamo che il numero di posti messi in palio è poco meno di 12.000 cattedre. Quindi il numero di persone che si è iscritto è altissimo rispetto alle briciole che il Ministero ha messo a disposizione. Per capire, l'ultimo concorso, per esempio, se tu te lo ricordi, quali erano le cifre, per dare un po' un'idea? Questa cosa, guarda, noi l'abbiamo chiesta spesso anche ai sindacati. Praticamente l'ultimo concorso non aveva un numero di cattedre fissato, ma era fatto su criteri diversi. Cioè, in questo caso praticamente il ministro vorrebbe, stando alla sua propaganda, dare immediatamente i posti in ruolo a chi vince il concorso. Quindi i vincitori saranno, secondo le stime del ministro, esattamente gli stessi dei posti messi in palio. Mentre il concorso, l'ultimo concorso, che è stato quello di Berlinguer, che è stato fatto sostanzialmente nel 99-2000, non prevedeva un numero fisso di cattedre. Se ricordate, insomma, per chi un po' sta nella scuola, quel concorso ha dato vita poi a una lunghissima graduatoria di persone che avevano vinto il concorso che non avevano la cattedra, che sono rimasti precari per anni pur avendo vinto il concorso e quindi formalmente essendo titolari. Forse in alcune materie sono ancora in graduatoria. Sì, esattamente, no, questa cosa è una cosa che va detta. Ancora le graduatorie del vecchio concorso in molte materie e in molte regioni sono ancora in vigore e l'attuale concorso le cancellerà. Quindi adesso poi magari approfondiamo la questione del concorso. Una prima cosa che va detta, appunto, che ci sono molte persone che hanno vinto il concorso del 2000 che non hanno avuto la cattedra, che sono ancora in attesa e che vedranno le loro graduatorie cadere, diciamo, di perdere, saranno cancellate sostanzialmente e sostituite dalle nuove, quindi perderanno i loro diritti sostanzialmente. Vogliamo parlare un po' del concorso del precariato? Direi di sì, cioè nel senso, innanzitutto appunto noi siamo qua per dire che come lavoratrici e lavoratori della scuola siamo contrari a questo concorso e vorremmo anche, come dire, cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote a questa macchina propagandistica, e quindi innanzitutto spieghiamo perché. Sì. Dunque, scusate, posso andare io? Io vorrei, prima di parlare del concorso, vorrei fare una piccola presentazione, una piccola puntualizzazione su cosa sono i precari della scuola, perché anche su questa cosa si è fatta molta disinformazione, si è fatta molta retorica. Insomma, chi si ricorda della propria esperienza di alunno, insomma, più o meno queste cose le ha presente, però poi si dimenticano o si ricordano in modo distorto. Allora, io direi intanto questo, che i precari, una grossa fetta di precari non sono supplenti. Questa cosa va detta subito. Voi tenete conto che come incarichi complessivamente a livello nazionale, gli incarichi che vengono dati agli insegnanti precari in Italia sono 100.000, più o meno 100.000 incarichi annuali. Che significa questa cosa? Per dirla semplicemente agli ascoltatori, in Italia sostanzialmente quando si libera una cattedra nella scuola, non viene assunta una persona. Cioè le assunzioni sono molto più lente rispetto al numero di cattedre che tendenzialmente si liberano, perché gli insegnanti di ruolo vanno in pensione o perché si formano semplicemente nuove classi che hanno bisogno di insegnanti. Quindi che cosa avviene? Che il Ministero dà annualmente un contratto a tempo determinato, un contratto più o meno per 9 mesi a un insegnante, per 10 mesi scusate, a un insegnante precario. Cioè un insegnante che va a ricoprire un posto che non è di nessuno. Ecco, questa cosa secondo me direi di puntualizzarla in apertura, nel senso che la maggior parte dei precari, o moltissimi di loro, compreso me, non sono supplenti di qualcuno, non è gente che va a ricoprire un posto che appartiene a un insegnante di ruolo. Cioè lo Stato non assume gli insegnanti, lascia i posti scoperti e preferisce dare incarichi a tempo determinato piuttosto che assumere le persone a tempo indeterminato. Questa cosa ci tengo, io per esempio sono 8 anni che lavoro nella scuola, sono 8 anni che ricopro posti vacanti, posti vuoti, posti che non appartengono a nessuno. Ecco, quindi questa è la prima, come dire... una precisazione magari implicita in quello che dici te. Sì. Bisogna distinguere bene, perché queste cose le sanno appunto soltanto gli addetti ai lavori. Allora, è vero che ci sono posti vuoti effettivamente, quindi senza titolare, e quei posti sono molto diminuiti rispetto agli anni scorsi, poi con tutta la contrazione che c'è stata, e quelli sono posti che si chiamano in gergo organico di diritto e vengono assegnati per un anno intero, cioè dal 1 settembre al 31 agosto, e sono veramente pochi. Poi c'è tutta un'altra, la maggior parte dei posti che sono sempre in gergo chiamati organico di fatto, cioè in pratica quello che si determina dopo le iscrizioni, che sono posti su cui ci sono docenti che conservano la titolarità, ovvero continuano ad essere formalmente titolari presso una determinata scuola, ma in realtà sono o comandati in vari enti, o lavorano all'estero nelle scuole italiane all'estero, oppure hanno assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, cioè trasferimenti che per capirci di un anno solo, per motivi di famiglia e così via. Quindi questi posti in realtà sono posti dove c'è un titolare che rimane almeno, a parte quelli delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni, che rimane titolare per un periodo che va tra i 3 e i 5 anni, dopodiché perde la titolarità se continua a usufruire di questi comandi o di queste assegnazioni all'estero, e quel posto poi diventa disponibile prima per i trasferimenti e poi eventualmente per i titolari. Quindi questo è anche per fare capire, sono posti vuoti ma non vacanti, cioè, capisco che la terminologia burocratica, guardate che lo sappiamo bene, ci viviamo, è complicata. Questo è un meccanismo, quindi, quello sia di mantenere le persone precarie, che si incastra in una maniera diabolica con questa possibilità di poi praticamente stare, conservarsi la titolarità in un posto, in una scuola, perché magari ti fa comodo eccetera, e però poi cominciare a girare per vari motivi, comandi all'estero e così via. Questo un po' deve essere capito, non perché sposti tantissimo la questione, ma perché quando si dice 100.000 posti vacanti si dà un'informazione che in realtà non è esatta. Perché uno penserebbe, vabbè, ci sono 100.000 cattedre vuote. Allora qual è il discorso? Che bisogna anche cominciare a ragionare su perché ci sono tutti questi comandi. Per esempio ce n'è una grossa fetta che adesso non so adesso quantificarvi, che è quella che poi è stata conservata. Ah, poi dimenticavo i sindacalisti, ovviamente. Oppure tutti quelli comandati nei vari ministeri, c'è gente comandata ai beni culturali, eccetera. Fra l'altro tutta questa gente, tranne in parte chi lavora all'estero, che viene pagato tranne lo stipendio base, quindi senza quella che una volta si chiamava l'indennità integrativa speciale, che adesso è incorporata nello stipendio, vanno pagati dalla Farnesina, dal Ministero degli Esteri. Per tutti gli altri lo stipendio, a parte alcune cose, viene pagato ancora dal Ministero della Pubblica Istruzione e sta sul bilancio della Pubblica Istruzione. C'è chi ha l'aspettativa, per esempio perché è andato a fare il professore universitario per 1, 2, 3 anni di contratto, c'è chi sta facendo il dottorato, cioè c'è una casistica veramente ampia di persone che, ripeto, conservano la titolarità e quel posto però non può essere, stando così la normativa, assegnato. Quindi dire 100.000, ripeto, o quello che sia, negli anni scorsi erano molti di più, posti vacanti, non è esatto, non cambia la sostanza dell'ingiustizia ovviamente che si fa a persone tenute precarie per 15 pure 20 anni, insomma, però è qualcosa che secondo me va precisato. Sì, sì, diciamo che dall'esperienza che ho, appunto, questi distaccamenti, questo tipo di cose sono diciamo una minoranza, io direi abbastanza, non dico esigua, però insomma obiettivamente una minoranza rispetto a posti che sono sostanzialmente vuoti e non assegnati. Sì, poi volendo c'è anche da aggiungere, poi ti lasciamo parlare, insomma, il fatto che questi posti che adesso sono 100.000 appunto sono molto molto diminuiti dal 2008 adesso, come conseguenza dei tagli Gelmini Tremonti di Brunetta, insomma, tra la 133 e la cosiddetta riforma Gelmini, insomma lì sono partiti una cosa come 80-90.000 posti che sono stati tagliati perché sono stati diminuite le ore di scuola, insomma. Sì, questo è bene ricordarlo, perché la riforma Gelmini in questo è consistito: tagliare ore di scuola e di conseguenza posti di lavoro. Sì. L'altra cosa che noi avevamo già detto nella scorsa trasmissione, che adesso dico soltanto, allora, perché tornando alla questione del concorso, cioè legata a questo discorso, che cosa sono i precari? Ecco, pure su questa cosa va fatta una chiarificazione, in quanto molto spesso capita, leggendo le dichiarazioni del ministro, che i precari siano presentati come gente, sostanzialmente, non viene mai detto esplicitamente, però il messaggio che una persona che non conosce queste cose può cogliere è che i precari siano persone, appunto, non so, semplicemente laureate, che si sono messe nella graduatoria in attesa perché non sapevano che cosa fare e stanno aspettando, per un meccanismo, come dire, burocratico, che viene presentato come burocratico, come la graduatoria, stanno aspettando di entrare in ruolo. Adesso è arrivato Profumo e con il concorso ha introdotto criteri di metodo e di selezione in questo baraccone pubblico, no, nella sua lettura, che dava il posto di insegnante a gente che non era mai stata selezionata, non era mai stata formata. Allora, questa lettura completamente distorta, che serve a far vedere, ecco, che è arrivato Profumo, che sono arrivati i tecnici e che finalmente le forme clientelari tipiche della politica vengono messe da parte, è profondamente falso. Tutti quanti i precari che stanno nelle graduatorie sono tutti quanti, hanno l'abilitazione all'insegnamento. Io faccio il mio caso. Io ho fatto, dopo la laurea, sono entrato in questa scuola di specializzazione per diventare insegnante, che al tempo durava 2 anni, era un numero molto chiuso, abbiamo dovuto fare una selezione molto dura per entrare, Durante i due anni, sono stati due anni di, anche molto duri, di continua verifica, eccetera, e alla fine abbiamo fatto un esame di Stato che prevedeva appunto l'estrazione di un argomento a caso da un, così, un bussolotto dove c'erano tutti quanti gli argomenti possibili. E tu dovevi, diciamo, lì per lì improvvisare un percorso didattico su questo argomento. Queste cose le dico non perché a me va, come dire, di far vedere che io sono specializzato, che chissà quali, no? Competenze io posso spendermi, però la, come dire, la lettura per cui nessuno ci ha mai formato, nessuno ci ha mai in qualche modo anche selezionato, è completamente falsa. Gli insegnanti precari sono persone molto formate, molto qualificate, che hanno pure, fra l'altro, accumulato molti anni di esperienza. Quindi ecco, su questa cosa pure io direi di fare chiarezza. Se vogliamo possiamo arrivare al concorso a questo punto. Il concorso, come forse un po' gli ascoltatori sanno, si svolgerà il 17 e il 18 dicembre. Questa sarà la prima tappa del concorso. Al concorso si sono iscritti, appunto, come dicevamo, 320.000 candidati, e quindi c'è bisogno di una prova preselettiva. Ecco, la prova preselettiva sarà fatta, come dicevamo l'altra volta, no? Uno si aspetterebbe, tu che insegni, non so, italiano e latino, io nel caso mio insegno italiano e latino, ti valuteranno su italiano e latino, o ognuno sarà valutato sulle materie. Quando siamo entrati a scuola di specializzazione era così. Invece verrà fatta una prova un quiz a risposta multipla, che comprende appunto domande di logica, cosiddetta logica, di informatica, di inglese e di comprensione verbale, cosiddetta comprensione verbale. Quindi noi dovremo fare appunto un quiz unificato per tutti quanti, quindi l'insegnante di inglese, l'insegnante di matematica, l'insegnante di italiano faranno tutti della quanti della materna, della primaria, tutti quanti lo stesso quiz, non lo stesso quiz nel senso materialmente, ma lo stesso tipo di quiz, che appunto non ha nulla a che fare con quello che queste persone dovranno andare a fare poi se saranno assunte, cioè non ha nulla a che fare con la scuola. Io ci tengo su questa cosa, poi magari mi fermo e facciamo anche si tenga conto di una cosa, che si fa io penso che forse è la prima volta che avviene in Italia, magari correggetemi se mi sbaglio, chi ha più esperienza di me, nella valutazione dei titoli. Cioè nella valutazione, ovviamente, come tutti gli ascoltatori sanno, quando si fa un concorso ci sono pure dei titoli che tu puoi far valutare per avere un punteggio maggiore. Allora ci si aspetterebbe, logica vorrebbe che uno dei titoli maggiormente validi, pesanti, no? Dovrebbe essere aver insegnato nella scuola italiana. Cioè se tu stai facendo un concorso per la scuola italiana, le persone che insegnano nella scuola italiana gli dai un titolo in più. Invece l'insegnamento nella scuola non vale niente nella valutazione dei titoli, non vale niente, cioè non c'è nella valutazione dei titoli la voce che valuta il servizio. Questa cosa penso che forse appunto chi sa qualcosa di più di me lo può dire. Io penso che non è mai avvenuta in nessun ministero, in nessuna amministrazione pubblica una roba del genere. E non so se direi che facciamo una breve pausa. Anche perché poi per stare nelle graduatorie con cui poi si viene chiamati, il meccanismo che spiegavamo prima, no? Ogni anno eccetera, quello che comanda è sicuramente il servizio, ma si vede anche dal tipo di punti. Certo, se c'hai 110 lode c'hai 33 di punteggio, ma quello grosso modo può oscillare un po', ma insomma di partenza quello che pesa ovviamente sono i titoli di servizio. Direi che facciamo una pausa musicale e poi continuiamo a parlare di quiz, visto che anche la pausa musicale parla di quiz. Gli uomini. Aspetta e spera. italiana c'è una luce blu, e in ogni casa che brilla una TV, e tutti intorno seduti a guardare davanti a questo nuovo popolare. Il padre e il figlio dice: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do, tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Sempre all'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Stiamo parlando del concorso, concorsino, concorsone, concorsaccio, come viene chiamato, che vedrà più di 300.000 malcapitati e malcapitate a dover affrontare questi quiz. E dovremmo avere un contributo telefonico. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Eccoci. No, volevo solo dire, vista la domanda che faceva il compagno sul fatto che fosse la prima volta che la valutazione del servizio non veniva, non c'era nei titoli, io posso confermare che quando ho fatto il concorso prima del 96, quindi suppongo nel 95, e l'ho vinto, io credevo di fare un concorso per 900 posti su Roma. In realtà ero io ignorante, perché di questi 900 posti 450 erano riservati a chi già aveva non solo vinto un concorso ma aveva anche insegnato con l'abilitazione ma non con la cattedra, chiamiamola così, anche se nella scuola elementare non si chiama cattedra, e quindi veniva moltissimo valutato il servizio, bisognava raggiungere i famosi 100 giorni, qualcosa del genere. Si chiamava doppio canale, che era una maniera insomma di riconoscere il fatto di avere lavorato nella scuola e di avere maturato un'esperienza, quella che adesso loro chiamano tirocinio. Era solo questo, cioè per quella che è la mia esperienza, la valutazione del servizio c'è stata negli anni precedenti. Ecco, è importante saperlo con più certezza, perché evidentemente noi eravamo tutti un po' spersi su questa valutazione del servizio nelle nostre esperienze personali, dico. Poi volevo aggiungere soltanto che poi, vabbè, un figlio valeva tipo 2 punti, la laurea 1, una cosa del genere, però questo non lo lasciamo perdere. Ora la laurea vale 3, il figlio non lo so quanto vale a questo giro. No, mi faceva abbastanza impressione questa cosa, perché mi sembrava, diciamo... non mi sembrava molto culturale, ecco, però al di là di questo, però la valutazione del servizio c'era. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. E tornando a noi, appunto, avendo appurato questa cosa con più precisione, insomma anche con l'esperienza di chi ha vissuto altri concorsi, arriviamo a questi quiz, insomma, a cui siete sottoposti e sottoposte. Sì, quindi io direi appunto questo. Intanto adesso leggiamo qualche domanda. Direi però di focalizzare su due punti. Ecco, questo concorso quindi ha due specificità rispetto ai concorsi del passato. La prima, appunto, di non valutare il servizio nella scuola come valutazione di titoli. E l'altra cosa è proprio questa cosa del quiz. Appunto, anche su questo sono sicuro, nessun concorso della scuola ha mai previsto una roba del genere, no? I concorsi venivano fatti ovviamente con prove scritte e prove orali inerenti alle discipline che poi uno avrebbe dovuto insegnare, insomma questa è... adesso io vi leggerei appunto questi quiz. Sono quiz che a mio modo di vedere rasentano un po' proprio la forma dell'indovinello. Ecco, ve ne leggo uno che mi ha colpito molto, che è così, si pone proprio così, cioè dice: se gatto uguale 10, albero uguale 12, computer uguale 16, monitor a quanto è uguale? E poi ci sono quattro possibilità: 18, 14, 12 e 22. Non c'è nessuna, io insomma magari vi posso pure lasciare un minuto per pensarci, ma non credo che ci arriverete, no, perché il segreto è veramente il segreto del professore di matematica, è chiamato a rispondere, ma io non la so. Sì. mi giustifico, è molto semplice. È molto, molto semplice, ma anche molto, molto banale, secondo me. Per questa cosa, appunto, è non zero. Secondo me non dice niente, forse, dell'intelligenza o della preparazione delle persone. Cioè, praticamente bisogna fare il numero di lettere che compongono la parola e moltiplicarlo per due. Sì. Gatto ha cinque lettere ed è 10 perché è 5 per 2, albero ha 6 lettere, quindi bisogna fare 6 per 2, e computer ha 8 lettere, quindi bisogna fare 8 per 2, 16. Ma chi è? Quindi monitor è uguale a 14 in quanto ha 4 lettere. Non posso fare la professoressa. A 7 lettere, scusate. Quindi ecco, ve ne potrei far, se volete ne posso leggere qualcun altro, in modo che magari ci rendiamo conto della qualità, come dire, della prova. E poi magari però facciamo una riflessione su questa cosa, perché fanno ridere. Noi l'avevamo già fatta a suo tempo, io ci tengo a ribadirla, anche perché stiamo mettendo in piedi delle iniziative su queste cose. Ecco, questo pure mi ha un po', come dire, un po' snervato quando l'ho fatto. La prossima settimana è un po' lungo, però lo leggo. La prossima settimana Anna deve incontrare Loredana, Roberta, Marisa, Paola, Giovanni e Simona, e ha a disposizione solo le sere di venerdì, sabato e domenica. Anna decide quindi di incontrare due amici ogni sera. Per organizzare gli appuntamenti si deve però ricordare che 1. Roberta e Simona non vogliono incontrarsi tra di loro. 2. Paola non può uscire il venerdì sera. 3. Gianni può solo la domenica sera. 4. Marisa e Loredana escono solo insieme. In base alle precedenti affermazioni, per poter incontrare tutti e 6 gli amici, quale delle seguenti persone Anna non incontrerà sicuramente il sabato? Ci sono 4 nomi. Questa è la settimana enigmistica, lo dico senza ironia, quelle che io salto sempre. Ah, questa cosa poi non l'abbiamo detto. Va fatto, il quiz comprende 50 domande e va fatto in 50 minuti. Ne leggo l'ultimo, se volete. Allora, dunque, problema, beh, questo se vogliamo forse lo possiamo rileggere. Problema: 3 amici, Giovanni, Marco e Filippo, vanno spesso al cinema. Si sa che se Filippo va al cinema ci va anche Giovanni. Giovanni e Marco non ci vanno mai tutti e 2 insieme. Può anche succedere che Filippo o Marco vadano al cinema singolarmente. D'altra parte, se Marco va al cinema, allora ci va anche Filippo. Ammesse per vere tali premesse, chi è andato al cinema in coppia? Ecco, allora io vorrei fare una riflessione su questa cosa e spiegare perché, insomma, noi adesso poi come diremo abbiamo messo in piedi anche un'iniziativa. Questa non è assolutamente la prima iniziativa che facciamo sul concorso. Ricordiamo che il 22 settembre c'è stata una manifestazione grande di precari che è stata in gran parte ignorata dai mass media e, quindi i precari sono in mobilitazione contro il concorso da tempo. Poi magari riassumiamo pure le motivazioni che ci spingono a essere contrari al di là di queste questioni. Però ecco, la questione è perché ci si potrebbe chiedere l'iniziativa che noi faremo il 13 dicembre alle 15 davanti al MIUR, questo presidio che poi magari ribadiamo, perché lo indice il coordinamento cittadino delle scuole e non il coordinamento dei precari. Io purtroppo, insomma, in questo momento parlo come precario, a me non andrebbe, però come dire, poi le condizioni ti spingono a dover riassumere questa scomoda posizione. Però perché tutto il movimento della scuola secondo noi deve farsi promotore dell'opposizione al concorso? Io direi almeno per due, anzi forse tre. In primo luogo io direi che si deve assumere tutto il movimento della scuola, che in questi mesi, in questo mese insomma, ha anche, come dire, manifestato una certa voglia di protagonismo da parte degli studenti, degli insegnanti. Direi che, dato che gli insegnanti e gli studenti hanno riassunto su di sé la voglia di essere protagonisti della vita scolastica e delle scelte che vengono fatte sulla scuola, allora io direi che la questione del precariato non può essere elusa. Cioè il fatto che nella scuola ci siano persone che da anni e anni mandano avanti la scuola pubblica italiana e che queste persone in questo momento per veder riconosciuta il proprio diritto, secondo me, ad avere una stabilizzazione, cioè l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, debbano sottoporsi a questa roba, secondo me è una cosa che riguarda tutta la scuola, tutti quanti. Perché in primo luogo il precariato è un problema della scuola, perché non garantisce la continuità didattica, sfibra i lavoratori e quindi li demotiva e quindi la qualità della didattica peggiora, e questo è un primo punto. In secondo luogo, degli insegnanti non possono essere selezionati con questa roba qua. Cioè questo, come dire, noi in quanto intellettuali abbiamo il dovere di opporci a questa roba qua. Cioè che gli insegnanti non debbano essere sottoposti a queste cose. Io dico, l'ultimo motivo per cui a me, come dire, preme, lo diciamo insomma prima, quando parlavamo qua fuori trasmissione, la questione del merito. Il ministro ha detto tante volte in modo propagandistico, non soltanto lui ma anche Monti, che nella scuola va introdotto criteri meritocratici, che gli insegnanti non devono aver paura della valutazione. Ecco, allora io il sospetto che mi viene è che penso che come insegnanti complessivamente dobbiamo porci è se un giorno non lontano, per avere uno scatto d'anzianità o insomma per avere una progressione di carriera, si debba essere sottoposti a questa roba qua. Cioè non so come dire, queste cose vanno bloccate, non riguardano soltanto i precari, perché una volta che il quiz è entrato dentro la scuola e si è stabilito che gli insegnanti possono essere selezionati con questa roba, significa che poi, come dire, la questione riguarda un po' tutti quanti. Quindi se questo è il metodo per utilizzare, cioè per valutare il merito, poi alla fine il merito potrebbe essere valutato così. Teniamo conto che siamo in un regime, ovviamente, cioè siamo in una fase di taglio delle risorse. Quindi che cosa sta succedendo? Che quelle poche briciole che concederanno agli insegnanti come aumento di stipendio saranno fatti pagare, secondo me, in maniera molto cara a partire da queste cose. Do la parola subito a Fabrizio sulla questione degli Stati Uniti, però faccio fare una riflessione: questi quiz li passi se ti addestri, non se sei non ci stanno qualità. Cioè questi quiz li passi se passi ore su questi quiz. Questa cosa apre tutto un discorso che adesso insomma immagino farai sulla questione dell'addestramento nelle scuole, nei sistemi scolastici in cui il quiz è generalizzato come prova di verifica. Scusa, volevo dire un attimo una cosa, di ricordarci di lasciare un po' di tempo per la questione pure dei precariata, e poi magari di fare, forse è compreso in quello che dirai, una riflessione su che cosa c'è dietro questa questione, non solo dei quiz, ma per esempio del non considerare il servizio prestato, no? Qui c'è un disegno evidentemente, perché tu puoi pure fare una prova preselettiva perché c'hai 300.000 candidati, ma puoi farla in un altro modo, per esempio la puoi fare per classe, per materia di insegnamento, fai delle domande, insegno storia, mi fai le domande sulla storia, può essere pure che qualche collega non risponde male. Ma questo è soltanto una decimazione proprio voluta ad hoc. Sì, infatti ricordiamo, Carlo lo ha detto chiaramente, ma è importante secondo me ricordarlo, che questa roba qua, come diceva lui, viene prima di tutto, prima di qualsiasi cosa, prima degli anni di servizio che non contano niente, prima dei figli, prima dei dottorati, prima dei libri scritti, degli articoli, degli assegni di ricerca. Prima di qualsiasi cosa ti devi confrontare con questa roba qua, il resto viene dopo se superi questo. Sì, io volevo collegarmi a tutto questo e fare una riflessione, non con le mie parole o le nostre parole, che potrebbero anche, come dire, essere tacciate di appunto corporativismo oppure chiusura verso la modernità, ma far parlare chi invece da sempre vive in un sistema fatto a quiz. E suggerisco di leggersi un articolo di un giornalista americano che si chiama Christopher Lynn Hedges, e il titolo di questo suo intervento è "Perché gli Stati Uniti distruggono il loro sistema scolastico", che è un'analisi spietata, lucida, di cosa significa per una nazione impostare la vita delle persone con i quiz. da bambini 5-6 anni fino alla morte, il sistema anglosassone, diciamo americano in particolare, come dire, somministra, direi anche inocula, questi test, pensando in questo modo di misurare il merito, no, di far progredire la nazione. In realtà questo giornalista compie diverse riflessioni, ne leggo alcune parti. È un esperto. Il superamento di test a scelta multipla celebra e premia una forma peculiare di intelligenza analitica. Questo tipo di intelligenza è apprezzato dai gestori e dalle imprese del settore finanziario. Non vogliono dipendenti che pongano domande scomode o verifichino le strutture e gli assiomi esistenti. Vogliono che essi servano il sistema. Questi testi producono uomini e donne che sanno leggere e far di conto quanto basta per occupare posti di lavoro relativi a funzioni e servizi elementari. I test premiano quelli che rispettano le regole, memorizzano le formule e mostrano deferenza all'autorità. I ribelli, gli artisti, i pensatori indipendenti, gli eccentrici, gli iconoclasti, quelli che marciano al suono del proprio tamburo, sono eliminati. Un esempio di questo io vorrei farlo, perché anche in Italia ormai abbiamo introdotto questo con i famosi, famigerati direi, test Invalsi, che vengono inoculati ai bambini dalle elementari fino alla maturità, e poi abbiamo visto adesso anche come selezione per molti concorsi, diciamo tutti i concorsi adesso prevedono questo sistema che Carlo ha descritto molto bene, anche gli insegnanti, addirittura gli insegnanti. Quindi diciamo che stiamo virando verso questo sistema americano illuminato in questo articolo. Beh, io ho presente una domanda fatta in Italia a un bambino di 10 anni, scuola materna, e il test diceva questo: c'è tre figure, una tazza, una scatola e una scarpa, e una domanda, ripeto, tazza, scatola, scarpa, un cucchiaio da mettere nel posto giusto. Un bambino ha risposto e ha messo il cucchiaio non nella tazza ma nella scarpa. Ovviamente questo è stato subito segnalato come bambino strano, no? Fantasia. Molta fantasia, perché quando gli è stato chiesto, no, con cautela, no, questo è, ha detto così almeno si ride un po'. Era la risposta che a lui divertiva maggiormente. Quindi la prima considerazione che ho letto, no, che i ribelli, già forse a 5 anni, già questo test è in grado di individuare chi non è adatto al sistema. Dopodiché, se vado avanti, se posso andare avanti, si sofferma molto sul ruolo degli insegnanti in questo sistema, il sistema quiz. Leggo: gli insegnanti stanno diventando altrettanto sostituibili che i dipendenti a paga minima di Burger King. Disprezziamo gli insegnanti veri, quelli con la capacità di ispirare i bambini a pensare, quelli che aiutano i giovani a scoprire i propri doni e potenziali, e li sostituiamo con istruttori che insegnano in funzione di test stupidi e standardizzati. Questi istruttori obbediscono, insegnano ai bambini a obbedire. E l'intervista a un insegnante che non vuole mettere il proprio nome addirittura al suo commento è questa: immagina di andare ogni giorno al lavoro sapendo, si parla di un insegnante in una scuola pubblica di New York, di andare ogni giorno al lavoro sapendo che molto di quello che fai è una truffa, sapendo che non stai in alcun modo preparando gli studenti alla vita in un mondo sempre più brutale, sapendo che se non continui secondo copione con i tuoi corsi di preparazione ai test, e anzi se non migliori al riguardo, resterai senza lavoro. A questo proposito, non lo so, mi viene in mente il punto 5 del decreto di produttività, che appunto dice che bisogna riformare il sistema scolastico per formare fin da piccoli alla cultura d'impresa, appunto, no? Qui valorizzando la capacità formativa dell'impresa e del lavoro, appunto. Io volevo allacciarmi al discorso dei precari, facendo presente che appunto c'è una situazione anche dei precari ATA, cioè del personale tecnico ausiliario, collaboratori, assistenti amministrativi, ma soprattutto assistenti amministrativi e assistenti tecnici, che è ormai da diverso tempo e da quest'estate, in cui per questa deportazione degli inidonei, ossia che dovrebbero transitare nei posti di assistente amministrativo e degli ITP, degli insegnanti tecnico-pratici, che dovrebbero transitare nei posti di assistente tecnico, è tutto fermo. E purtroppo, ecco, c'è poca capacità di organizzarsi, anche se ci sono state voci che si sono levate per almeno una presa di posizione da parte dei ministri, perché poi nel decreto di stabilità è stato stralciato l'emendamento che prendeva in considerazione un'eventuale revisione di questo transito, e quindi è rimasto valido. Di fatto però questo decreto di stabilità, almeno riguardo a questo punto, non è ancora fermo sulla scrivania del ministro, non è stato firmato, quindi dal punto di vista le convocazioni del personale amministrativo della scuola non avvengono, e siamo quasi al secondo anno che praticamente persone che anche lì precarie ma con la possibilità di avere contratti annuali non vengono nemmeno convocate. C'è una fattispecie giuridica che è al vaglio anche di studi di avvocati, per cui si stanno facendo dei contratti, ci sono tuttora in essere dei contratti del personale amministrativo e tecnico della scuola su un articolo, cioè che è l'articolo 40, che quindi sono state date indicazioni da parte del Ministero di impiegare personale nel contratto, praticamente, che per legge della contrattazione collettiva nazionale è prevista data inizio, data fine, quindi questa è un'anomalia giuridica non ammessa in nessun altro tipo di contratto a tempo determinato. E invece c'è questa dicitura dell'articolo 40, viene citato questo articolo 40, cioè posti sull'avente diritto, quindi che fino a nomina dell'avente diritto, e che dovrebbero essere appunto questi docenti inidonei, che però è tutto in stand by, praticamente non si muove nulla, perché c'è stato un incontro al MIUR il 29 di novembre tra i sindacati e il ministero, ma non si è deciso nulla né su quanti, nemmeno sulle immissioni in ruolo, cioè dovevano passare in ruolo circa 3.000-5.000 persone del personale appunto ATA, largamente inteso, collaboratori tecnici, cioè non si muove nulla, è tutto rimandato ora all'11 dicembre, dove ci sarà un incontro al MEF, praticamente col Ministero dell'Economia e Finanze. E nel frattempo praticamente il personale ATA e il personale docente inidoneo è in questa sorta di limbo, di non sapere che cosa fare, perché comunque non vogliono, i docenti inidonei giustamente stanno facendo ricorsi, c'è uno studio di avvocati, Milano, Roma, un grande studio a cui si sono rivolte diverse anche associazioni sindacali e a diverse lavoratori precari, che fossero sia docenti che insegnanti, che ATA, e appellandosi alla Corte di Giustizia Europea, perché la tassazione qui invece ha bocciato, praticamente ha detto che nella pubblica amministrazione è ammissibile addirittura reiterare contratti ad libidum, praticamente, laddove negli altri settori dopo 36 mesi di contratto reiterato si viene assunti, e quindi però il TAR ha bocciato questa richiesta. E allora questo studio si è rivolto alla Corte Europea, alla Corte di Giustizia Europea, perché ci sono gli spunti, cioè ci sono articolati di legge che prevedono appunto la Corte di Giustizia Europea che boccia l'Italia proprio per la mancata stabilizzazione dei precari della scuola, specialmente del comparto pubblico scuola. Quindi anche io inviterei tutti i docenti inidonei e tutto il personale ATA precario, che sono tantissimi, ma purtroppo i dati ci sono stati tagli di 44.000 unità nel corso di questi ultimi 3-4 anni, no? Dalla Gelmini in poi, quindi e nelle segreterie soprattutto, cioè veramente i lavori, i carichi di lavoro sono aumentati, però stiamo così, insomma. Io sono nata, ovviamente, quindi sì, abbiamo una telefonata. Ci sei ancora? Ci sono ancora, sì. Bene, sei in diretta. Ciao. Sentivo quella breve lettura dell'articolo del giornalista statunitense, insomma, con parole che magari per noi sono diverse, le usiamo in un altro modo, però poneva l'accento su un fatto, mi sembra palese, cioè che la scuola complessivamente, questa istituzione, non vive di luce propria, non vive di qualcosa né che è magico né che è profondamente radicato nella testa dei governanti e a volte anche della popolazione, ma vive in funzione del fatto che deve semplicemente preparare delle persone a un mercato del lavoro che poi è quello che è e quindi che cambia di volta in volta, insomma, cambia secondo, insomma, dei cicli anche direi soprattutto economici. Quindi il problema della scuola di oggi credo, insomma, che sia anche questo, però nel dirlo con parole così semplici e molto, molto precise, direi, questo giornalista americano, non lo vedo altrettanto, diciamo, dal punto di vista di come si sono mobilitati gli insegnanti in questo momento. Sentivo prima che, insomma, c'era una sollecitazione a farsi carico verso tutti e credo in particolare verso gli studenti che a loro volta si sono fortemente mobilitati di farsi carico del problema della scuola, però la scuola non è, insomma, tutti siamo stati studenti, no? E tutti ci ricordiamo che rapporto abbiamo avuto con gli insegnanti, poi magari qualcuno è diventato insegnante a sua volta, come quelli e quelle che sono in studio adesso, però non ci dimentichiamo che il punto di vista degli studenti non è immediatamente immedesimabile con le necessità degli insegnanti, che siano i quiz, che siano i concorsi, che siano altre cose, peraltro fate benissimo, insomma, a denunciare queste cose. Quindi la sollecitazione, insomma, io pongo questa domanda, dovrebbe anche prendere in considerazione quali sono oggi le esigenze o perlomeno quelle che gli studenti e le studentesse hanno manifestato in questi giorni, probabilmente facendo un salto rispetto alla posizione del corpo insegnante in genere, poi ci sono evidentemente delle sfumature e delle differenze, e si sono posti direttamente il problema, dice, ma il mio futuro qual è? Quando dicono il futuro hanno capito perfettamente che non solo non c'è lavoro, ma che comunque il lavoro che c'è non ha bisogno affatto di una formazione di un certo tipo, di una scuola di un certo tipo, e quindi questo significa o il degrado della scuola o che la formazione la fa qualche d'un altro. Poi in effetti, se date un'occhiata all'accordo fatto dai sindacati sulla produttività, certo, che certo, apparentemente non c'entra niente, no, però c'è un capitolo proprio dedicato alla formazione che viene messa a frutto, nel senso che sì, sono previste proprio con impronta di tipo privatistico proprio associazioni imprenditoriali che si occuperanno poi di fare formazione per il mercato del lavoro. E allora uno dice, ma la scuola allora che ci sta a fare? Ecco, allora io l'invito, la domanda che volevo fare è proprio questa, cioè che cosa il corpo insegnante oggi si sente di poter fare per capire quali sono le esigenze degli studenti. La più semplice, per esempio, che è ripetutamente presente e poi ripetutamente abbandonata, è quella, che ne so, di forme di salario agli studenti, che sono i libri, che sono, non so, altre forme di assistenza, perché poi c'è anche questo oggi come problema. Su questo io non ho mai visto, se non in rarissime occasioni, il corpo insegnante schierato o mobilitato, insomma, no, su queste tematiche prettamente studentesche, perché credo che la sollecitazione agli studenti a immedesimarsi nel fatto che hanno un insegnante stressato perché è precario, non gli basta, insomma, non sia sufficiente per la gravità della situazione in generale. Ecco, mi fermo qui e vi ringrazio. tutto. Grazie. Io non ho una risposta, nel senso che posso dire che in realtà gli insegnanti sono altamente impreparati sul loro ruolo oggi e quindi ancora meno sul ruolo degli studenti domani. Quindi forse queste settimane, questi mesi hanno visto, no, un piccolo cambiamento in questa direzione. C'è stata un collante, a volte non troppo collante, perché ci sono stati anche dei confronti vivaci tra studenti e docenti, ne abbiamo dato ampio risalto da questa radio, e io credo che gli insegnanti stiano ancora molto indietro sulla consapevolezza del loro ruolo e in generale e in questo momento in particolare, e quindi non sono in grado di leggere semplicemente quello che sta accadendo sotto gli occhi loro, e quindi vedono, non so, i test invalsi, che in realtà è un test fatto agli studenti per valutare i docenti, dopo che era fallito il quizzone, quello di Berlinguer, che era un modo invece per testare gli stessi docenti e dividerli in fasce. Adesso subdolamente questo test viene fatto agli studenti, e qualche studente ha capito che è un gioco, è una manovra che in realtà colpisce attraverso loro gli insegnanti, e poi colpirà loro come cittadini, come potenziali lavoratori precari futuri. Non so, il resto io ancora non, cioè, vedo lontana questa condivisione dello stesso modo di sentire, di vedere, interpretare, di leggere la realtà tra studenti e docenti. I docenti sono altamente impreparati, e quindi queste cose non passano nei collegi docenti. Quando si tenta di parlare di queste cose, ma no, perché noi abbiamo altri interessi. E quindi la mobilitazione che c'è stata, che noi abbiamo sottolineato, come dire, incentivato, descritto, in realtà si sta spegnendo, perché le 24 ore sono state ritirate, e quindi questo per molti docenti basta, senza capire che invece, infatti, poi in piazza sono andati gli studenti. E quindi l'appello di Carlo di prima, così ci leghiamo a quello che diceva, cioè svegliatevi docenti, fate qualcosa, perché si tratta di voi, si tratta della scuola dove voi lavorate, dove noi entreremo forse in 11.000 su 320 con quel meccanismo infernale appena descritto. In realtà non ci smuove, e addirittura noi sappiamo che c'è una circolare che invita i docenti a, no, candidarsi come commissari in questo concorso. E quindi io credo che l'appello che possiamo fare è di boicottare docenti di ruolo, boicottate questo concorso, non andando, non aderendo, non sposando, non fate commissari, non c'è bisogno del commissario. Sì, io credo che quello che veniva posto per telefono sia un dibattito molto ampio, che a me piacerebbe affrontare da questi microfoni. Non l'affronteremo oggi perché sono le 16:59, io farò e sono la campanella tra poco, insomma. Prima che suoni la campanella, però, vorrei ricordare due mobilitazioni che si aprono. Una è quella che in qualche modo annunciava adesso Fabrizio prima di me, se Carlo vuoi. Noi come coordinamento delle scuole, come movimento dei precari, abbiamo pensato a due momenti di mobilitazione. Allora, noi organizzeremo il 13 dicembre alle 15 davanti al MIUR un presidio contro il quiz, contro il concorso. Ovviamente il tentativo è quello di far sentire insomma tutte quante le istanze della scuola che sono uscite, quindi la piattaforma che indice questo presidio non è soltanto no al concorso, ma insomma una piattaforma più ampia. Teniamo in piedi la mobilitazione contro il PDL Prea e anche contro l'ipotesi di innalzamento di orario, perché questa cosa è uscita, però avrete sentito Monti che ha parlato di insegnanti corporativi, che lui ha detto appunto nemmeno due ore vogliono in più, quindi potrebbero uscire di nuovo fuori queste cose. L'altra cosa che noi chiediamo, c'è un appello che adesso sarà diramato sulla rete, appunto è quella di non collaborare al concorso. Come diceva Fabrizio, gli insegnanti il concorso appunto si terrà nelle scuole, nelle sale informatica di varie scuole di tutta quanta Italia, E quindi il personale di quella della scuola sarà chiamato a collaborare a questa iniziativa. Noi chiediamo che lì dove possibile, ovviamente, nel momento in cui insomma all'insegnante venga chiesto di collaborare, sia per candidarsi per fare il commissario sia per fare il sorvegliante, perché immagino ci sarà bisogno di molti sorveglianti per questa cosa, ci si anche gli ADA, infatti l'appello, scusate, è esattamente, scusami perché ho sbagliato io, l'appello è a tutto il personale della scuola. Affinché tutto il personale della scuola, dove possibile, cioè dove le mansioni richieste vadano fuori dal proprio contratto, si rifiuti di collaborare alle operazioni del concorso. In questo modo daremo due messaggi, cioè da una parte dimostreremo la debolezza del ministro, dall'altra che appunto, come dicevamo prima, questa questione del concorso riguarda tutto quanto la scuola. L'altra iniziativa di cui vorremmo... Ricordiamo velocissimamente che se c'è il nuovo appalto per le mense romane, è una questione importante, le mense scolastiche, riguarda bambini e bambine dalla materna alle medie, e sarà effettuato a ribasso, ovviamente a ribasso per quanto riguarda la qualità, e per esempio spariscono quasi completamente i cibi biologici. Quindi adesso velocemente c'è un incontro organizzato dai genitori della scuola Pisacane di Torpignattara giovedì 6 dicembre alle 17 presso la sala ovale dell'ex SNIA Viscosa, via Prenestina 175, è l'area vicino al centro sociale, quella che un po' si è preso il comune, comunque via Prenestina 175, 6 dicembre ore 17. Daremo conto poi insomma di questa assemblea, di questa questione delle mense prossimamente, perché è una questione insomma che ci interessa e che vorremmo trattare. A questo punto sono le 17:03:38, l'ora di buco vi saluta, salutiamo Carlo che ringraziamo di essere stato con noi in trasmissione. Questo spazio radiofonico vi dà appuntamento a martedì prossimo alle ore 16, ma voi rimanete all'ascolto con gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seguono le trasmissioni col martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, che va in onda dalle 17 alle 23, come ogni martedì da 18 anni. Cara maestra.